collaborazione dei qui presenti professori d'orchestra, Chamalon, Tirienkau, Daegu, Portakan. Onoratissimi, reduci dai favolosi trionfi di Calciavacca e con la partecipazione straordinaria della qui presente signorina Michelina. Piacere. Che è un po' tonta ma abbastanza femminile, andremo a seguire il mio solito repertorio internazionale, iniziando con la dolorosa storia del Lice Cagnasso, ovvero sia il dramma dell'immigrante che per delirio si imbarcò sul Sirio. Via Barella per l'avventura americana d'oltre oceano. Lice Cagnasso partiva in terza classe sul Sirio per quel suo grande delirio di far fortuna laggiù, laggiù nel nuovo mondo dove la gente fa il grano e che nemmeno in un anno certo si può arricchir. Povero Lice, il bordo suo lasciava e in Venezuela andava per far fortuna laggiù. Qui si vede nel secondo quadro il Lice che sale sulla nave nel porto di Genova salutato da amici e parenti. Gli amici ed i parenti l'accompagnaron sul molo, Lice Cagnasso da solo sul bastimento salì, il bastimento le grande come tre volte un palazzo, e fu così che il Cagnasso nel bastimento sparì. Povero Lice nel bastimento spariva, in Venezuela partiva per far fortuna laggiù. Nel terzo scomparto si vede il Lice a bordo del Sirio, il quale molto triste conta i giorni e pensa alla mamma lontana rimasta. La l'onda del mar le tremenda sente, poi sale in salita Lice Cagnasso gomita, pensa alla mamma che è là, ma sulla tolda del Sirio conosce Assunta che a botto era di Bergen di sotto, perciò l'amore fiorì. Povero Lice che lui si innamorava e in Venezuela andava per far fortuna laggiù. La scena che segue rappresenta il mostruoso disastro del Sirio, come ben tutti sanno. Ho letto. Dall'onda nera e ruggente il Sirio vien sbalottato, il capitano ferito grida si salvi chi può, donne, bambini e fanciulli come che fosse una truppa sentono nella sialuppa la siando Lice colà. Povero Lice, lui può scappare dal Sirio per quel suo grande delirio di far fortuna laggiù. Ed ecco il Lice rimasto sul Sirio tra lo scatenarsi degli alimenti, simile a rapace condottiero. Lice da solo sul ponte, mentre già il Sirio va sotto, vede l'Assunta chiavotto venire verso di lui. Lui la credeva imbarcata nella sialuppa da basso, ma lei gli grida Cagnasso, voglio morire con te. Povero Lice, in Sirio già affondava, l'Assunta lui stringeva contro il suo cuore così. all'improvvisamente dal mare in burrasca sale un grido: c'è ancora un posto nella sialuppa, chi si salverà? Il capitano di sotto grida: avanti, c'è un posto! Lice risponde: son tosto, pronti, ci vengo da me. Così l'assunta Chiavotto resta sul ponte di sasso, vedendo Lice Cagnasso che l'ha tradita così. Povero Lice, l'amore abbandonava, la pelle sua salvava per non morire laggiù. La storia volge all'epigono e il Lice Cagnasso riduce. Dalla tragedia del Sirio ritorna al borgo di origine vulgo Parella. Lice Cagnasso è tornato alla borgata Parella, scordando il Venezuela, dove fortuna si fa. Adesso Lice Cagnasso lavora alla viscosa e piange l'amorosa, morta nei flutti del mar.